questo è mio mare, sotto una palla che sale, che scende e sale, e se vibra sarà il mio cuore che suda e batte di più, di più, di più, di più, mai più. Insieme così apro gli occhi e vedo una palestra vuota, vuota di noi, le luci spente sui nostri ricordi, polvere in quelle, nelle tue mani, imparai a cadere dimenticando paure o dubbi. In quelle, le stesse mani, versai buon umore, non mi risparmiai, e lo sai, lo sai, lo sai, lo sai, sosterrai fra i pensieri miei. Apro gli occhi e vedo una palestra vuota, vuota di noi, le luci spente sui nostri ricordi, scalpitando i nostri piedi, decisero di seguirsi anche fuori dalle palestre, calzando scarpe diverse, imparammo ad amare le nostre andature per ore ed ore ed ore ed ore. Oramai, rimembrando noi, chiudo gli occhi, sento un brivido adrenalinico, malinconico, ancora in campo per la squadra lotte.